известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle civiltà di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere, parire, sparire. Adesso, risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno, ci accorgiamo che non c'è più niente da fare. E un gentile ascoltatore che si chiama Roberto ci ha segnalato questa clip, questo spezzone audio-video che siamo andati a recuperare, a vedere prima e poi, piuttosto impressionati, abbiamo pensato di riproporvi. Pierpaolo Pasolini, risale a una intervista televisiva rilasciata sulle dune di Sabaudia, La bellezza di 35 anni fa, nel febbraio del 1974, una vita o metà di una vita, insomma, descriveva Pasolini, no? I cambiamenti a cui il nostro paese, in modo piuttosto repentino, così era sottoposto, e li analizzava con un certo fatalismo, una piccola lezione di lungimiranza che ci sembrava giusto farvi ascoltare a inizio settimana, così tanto per dare, no, un po' il tono ai lavori in corso, diciamo. Però adesso lasciamo Sabaudia e le nostre amate sponde e cominciamo, come mandato di Jefferson, a andare a spasso per il mondo, perché tante sono le notizie, gli stimoli, anche le zone di crisi o comunque di evoluzioni, di situazioni interessanti da seguire. E il primo sguardo lo lanciamo a Israele, una situazione che stiamo monitorando ormai da tante settimane, perché come sapete si è votato, ma poi non si è fatto un governo, perché enormi erano le complicazioni, gli intrecci, le possibilità, gli accordi e i disaccordi. Adesso però sembrerebbe proprio che il premier designato Benjamin Netanyahu del Likud stia stringendo i tempi nel tentativo di riuscire a presentare la prossima settimana alla Knesset il suo nuovo governo attraverso un accordo già a dir poco discusso. Tutto il mondo sta ragionando attorno a questa alleanza con Avigdor Lieberman, la estrema destra israeliana, con un fardello piuttosto pesante di presentabilità soprattutto sullo scenario internazionale. A questo punto noi abbiamo richiamato in causa, come facciamo in queste occasioni, colei che abbiamo un po', no, nominato nostra consulente sul tema, ovvero Maria Grazia Enardu, ricercatrice di storia internazionale all'Università di Firenze, insegna storia di Israele moderno, e le abbiamo chiesto quale può essere la base di un accordo fattivo, un accordo di governo tra Netanyahu e Lieberman. Hanno firmato stanotte un accordo che dà al partito di Lieberman due ministeri importantissimi: gli esteri, a Lieberman stesso, gli interni e ministeri apparentemente minori come le infrastrutture, che significano determinare l'assetto dei territori del West Bank. Se questo è il punto centrale, la seconda domanda è chi farà assieme a loro maggioranza, e qui il terreno diventa estremamente complesso, perché chiaramente un governo tutto a destra, salvo manovre dell'ultimissimo minuto. E a questo punto l'altro partito da includere subito è lo Shas, dei religiosi sefarditi, e poi tutto diventa più complicato perché bisogna aggiungere altri partiti, naturalmente i religiosi ashkenaziti, e poi almeno un partito di estrema destra, e a questo punto si arriverebbe alla quota di 61 deputati, cioè una maggioranza matematica strettissima. Per allargarla ancora, Netanyahu dovrebbe includere un altro partito di estrema destra e arrivare così a 65, ma a questo punto sarebbe un governo estremamente connotato e molto difficile da presentare all'esterno. Sembra che Lieberman abbia ottenuto il massimo che potesse ottenere, il grande vincitore, perché insomma 5 ministeri, di cui almeno 3 di peso, sono veramente un bel bottino per lui. Beh, è anche giusto, perché ha avuto un buon successo elettorale e ha in prospettiva un altro potenziale successo elettorale, perché se si andasse a nuove elezioni Lieberman aumenterà ancora di più i suoi seggi, quindi lui gioca letteralmente con quello che ha ed è giusto che abbia. E a questo punto, a tuo giudizio, Netanyahu ha vinto anche lui, o forse era meglio pensare all'ipotesi di coalizione con la Livni, che tra l'altro sembrava aperta fino anche a pochissime ore fa, fino a pochissimi giorni fa? Netanyahu ha voluto giocare la carta del rifiuto di concedere a Livni due cose importantissime. Uno era un preciso impegno a darsi davvero da fare per uno Stato palestinese, e due era cedere a rotazione il posto di primo ministro, cosa che Livni chiedeva giustamente perché ha avuto un successo elettorale innegabile. Gli americani, forse loro speravano invece in un governo più ampio. Un paio di settimane fa dall'America giungevano voci che il Dipartimento di Stato volesse dichiarare Lieberman persona non grata. Un ministro degli esteri israeliano che si muove poco o che non viene invitato con la stessa cordialità con cui si invitava Livni pone qualche problema aggiuntivo non da poco. Quanti mesi o anni di durata di vita pronostichi per questo governo? Molti in Israele pronosticano un anno, prevedono elezioni nella primavera dell'anno prossimo. E avete capito che situazione complicata si stia delineando anche in Israele, con un possibile ministro degli esteri Lieberman con una reputazione, insomma, diciamo ottimisticamente tutta da costruire all'estero, gli americani che sembravano remare in una direzione diversa, e un governo che per raggiungere le cifre necessarie deve aggregare entità molto, molto diverse, eterogenee. Staremo a vedere. Ringraziamo anche Maria Grazia Enardu, e ci spostiamo un momento negli Stati Uniti, perché anche qui sono successe un paio di cose piuttosto notevoli. E comincerei dicendo che Obama ha appena fatto sapere che anche lui, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, vuole dire la sua su questa storia dei bonus alla AIG, la grandissima sigla di compagnia di assicurazioni, il gigante assicurativo americano, al centro di un vero e proprio scandalo etico nel weekend americano. Sapete bene che esponenti dell'amministrazione di Obama e del Congresso, in modo anche piuttosto trasversale, hanno reagito in modo violento, scandalizzato a quello che è successo. In pratica la AIG ha intascato 170 miliardi di dollari in aiuti federali per evitare il fallimento, dopo essersi presentata con una perdita di 61,7 miliardi di dollari lo scorso anno, la più terrificante della storia, però poi ha pensato bene di distribuire ai suoi dirigenti 165 milioni di dollari. E direte, che sarà mai? È un millesimo di quello che lo Stato americano gli ha appena dato. Di fatto si sono scandalizzati tutti. Sentite come reagisce Larry Summers, il consigliere economico di Obama, di fronte a questa notizia. George, look, there are a lot of terrible things that have happened in the last 18 months, but what's happened at AIG is the most outrageous. What that company did, the way it was not regulated, the way no one was watching, what's proved necessary, it is outrageous. È oltraggioso, ha detto Sammes, ha detto guardate di porcherie negli ultimi 18 mesi, ne abbiamo visti di tutti i generi, ma insomma arrivare a una cosa del genere io lo definisco sinceramente oltraggioso. L'abbiamo visto l'intervista con George Stephanopoulos su ABC di Larry Summers, era credo di poter dire sinceramente sdegnato, ecco questa è la parola giusta. Il fatto è che l'amministrazione Obama pare proprio non possa far nulla per impedire alla AIG, tanto per dirla all'italiana, questo colosso assicurativo, di pagare questo bonus di 165 milioni di dollari ai suoi manager, che poi sono esattamente gli stessi che l'hanno portata sull'orlo del fallimento, perché questo era parte di un accordo comunque precedente alla crisi e quant'altro. Edward Libby, che è il capo di AIG, ha detto che lui di per sé rinuncia ai suoi soldi, insomma prova a salvare la faccia, ma che gli accordi presi con queste persone erano antecedenti a tutto il disastro successo dopo e che i signori in questione probabilmente non faranno come loro e incasseranno ciò che gli spetta. Noi abbiamo messo su Facebook questa notizia per sottoporla ai vostri giudizi, che sono arrivati numerosi e che ascoltiamo tra pochi istanti. Dicono che diventano pazzi se non riescono a diventare pazzi stasera, come noi signori di una certa età che dicono anch'io voglio divertirmi almeno un'altra sera, ma state a casa, cioè siete vecchi signori U2, vecchi, ricchi, beati voi, vi auguriamo ogni bene e siamo curiosi di ascoltare, perché ci ha pensato, ci ha dormito sopra, secondo me Obama, due giorni su questa storia della AIG. Adesso è apparso da pochi istanti su CNN l'avviso che alle 12, a mezzogiorno Eastern Time, quindi alle 18 ora italiana, se avete un televisore o un computer a portata di mano, io vi consiglio un'occhiatina di dargliela, perché Obama prenderà posizione sulla questione e secondo me se va lì Emiliano a dire qualcosa poi deve dire qualcosa di grosso, non può dire mi dispiace oppure cattivelli, dovrà dire qualcosa di grosso, probabilmente un richiamo etico, ritengo che prova addirittura come dire a discutere quello che abbiamo discusso poi con voi su Facebook, ovvero per carità, accordo fatto, accordo rispettato, tutto quello che vuoi, però poi c'è sempre come dire una decenza, no? Una decenza da salvare. Express yourself. Insomma, la storia l'avete capita, è questa qua che vi abbiamo raccontato oggi su Express Yourself di Jefferson, il nostro sito di dibattito. Vi abbiamo chiesto, dopo aver riassunto gli eventi e raccontato di tutti questi soldi in circolazione, della rabbia dell'opinione pubblica per l'uso fatto del denaro pubblico dalle compagnie salvate dal fallimento proprio grazie ai fondi dei contribuenti, un risentimento che rischia di essere indirizzato verso l'amministrazione Obama, ma che non riesce, non può impedire questo spreco. Abbiamo chiesto: incorreggibili, arroganti, inevitabili, cambierà qualcosa oppure continueremo a essere ostaggi dei soliti furbi? La crociata di Obama, dunque, rischia di somigliare alle spedizioni di Don Chisciotte? Allora, direi che i tantissimi che ci hanno scritto, perché su questi argomenti quando si tocca il portafoglio, insomma, la gente giustamente si scatena. Beh, direi anche però la morale. Direi che infatti il clima è tra il rassegnato e l'indignato. Per esempio Riccardo dice: con rassegnazione che giorno dopo giorno si hanno le prove che il mondo è dei furbi, io mi sento un imbecille per agire a modo. Ecco. Siamo in due, Riccardo. In tre. Bene, allora Marco, molto lapidario, in scia, dice: chissà perché mi viene in mente all'Italia. Molta noi non l'abbiamo fatto. All'Italia ci hanno pensato loro, sì. E allora Adelaide addirittura scomoda Don Abbondio ai promessi sposi, perché dice: uno, l'onestà morale, se non ce l'ha mica se la può dare. Mi sembra perfetto come commento. Perché poi c'è chi invece sottolinea il fatto che gli affari sono affari e la morale è la morale. Il discorso, e io non so, auspico che Obama parli proprio di questo, laddove, se esiste, ma esiste, questo sarebbe un altro tema da dibattito, esiste un punto in cui si incrociano le due strade e quindi una diventa correttivo dell'altra. Comunque Sandro scrive: l'arroganza non finisce mai, i poteri forti sono sempre molto forti, multinazionali, ricattatori, ma è anche vero che se esiste una legge essa va osservata, poi eventualmente cambiata, come diceva De André in una canzone. Francesco: tutto il mondo è paese, non dimentichiamo che in Italia chi ha affossato all'Italia ha preso bonus milionari. Ecco, l'Italia è molto popolare, l'Italia oggi si spopola, se ne parla parecchio. Flavio: quindi gli USA non hanno i soldi necessari per coprire i loro stessi eccessi, li chiedono alla Cina e al mondo intero, poi si vede che questi soldi servono a pagare i bonus. Lucio saggiamente e latinamente dice: pacta sunt servanda, anche quando si rivelano, come in questo caso, iniqui, fastidiosi, inaccettabili, no? Luca: Obama non è Don Chisciotte, questa crisi almeno sta mutando quelli che si credevano i valori immutabili del capitalismo Reagan-Thatcheriano. Mauro: pacta sunt servanda, dai. Torna in latino. D'accordo, i contratti vanno rispettati, ma esistono altri modi per farsi restituire quanto non illegalmente ma immoralmente percepito? Questo è il punto. È centro caldo, vai. Allora Giovanni, non va certo per il sottile, dice: in certi casi, ha visto il drammatico momento che per i risparmiatori, verrebbe drasticamente voglia della legge del taglione addirittura, ecco. Poi c'è Alessio che invece non si fida evidentemente, gli svuotano la piscina, cosa di Obama, e dice: Obama sta salvando il bambino e l'acqua sporca, niente di nuovo sotto il sole. E poi c'è un fantastico Sergio, molto sardonico, che dice: ecco pronto un bel incentivo per i manager AIG a fare del proprio meglio per collaborare e risolvere bene i problemi che hanno creato. Allora dice: i loro bonus verranno pagati in azioni e titoli tossici, un bel paniere portafoglio bilanciato di AIG, Madoff e Lehman Brothers, e poi se e quando questi titoli avranno il valore al quale erano venduti ancora ad agosto come affaroni imperdibili, i legittimi beneficiari ne guadagnerebbero, altrimenti ciccia. Ciccia, ma io un anno fa io potevo venire a te e dire: Emiliano, lo sai che ho un portafoglio Lehman Brothers? E tu dici: ammazza. Sì, ho parlato con Madoff, ammazza, no? E adesso siamo invece alla cronaca criminale, anche se poi ben informati mi raccontano che Madoff in realtà non lo conoscesse nessuno, fosse un terminale. Ma adesso e non, fanno finta di non conoscere. No, ma non lo conoscesse, perché andavano a chi tu affidavi i tuoi soldi, andava a sua volta da Madoff. Feo, tra l'altro, su SMS 349-238-6666, annota che c'è comunque più moralità politica lì che da noi. E poi ancora Andrea invece su Facebook scrive: se Obama avesse voluto poteva fare una legge per tassare dell'80% i bonus dell'azienda che hanno ricevuto dallo Stato federale un aiuto maggiore 100 miliardi di dollari, farli uscire dalla finestra insomma. Cristiano: credo che la cosa più saggia possa essere procrastinare i bonus e gli incentivi finché la società che usufruisce di bonus statali non sia in grado di erogarli con i soldi suoi. Claudio: Obama paga lo scotto della strampalata eredità del suo predecessore, ora deve mettere rimedio per il futuro. E ancora tanti, dai, tre al volo. Francesco: mi pare doveroso richiamarvi al vostro lato comunicativo cinese, lì non hanno scampoli, li aspetta la forca, ecco. Luigi: non ho mai visto in tutta la mia vita un'azienda che stabilisce i premi di produzione a inizio anno e li slega dagli effettivi risultati dell'esercizio. E infine Giovanni: non somiglia alle spedizioni di Don Chisciotte per un motivo molto semplice, Obama è il presidente degli Stati Uniti, Don Chisciotte no. Realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle night, tender breeze blows, whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in a Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night long. These streets are sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you've left behind. So tenderly, this story is nothing more than what you see. What you've done will become standing strong to you along in your skin. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, a heart locked in a Gran Torino, beats a lonely rhythm all night. Ci siamo lasciati provando a ragionare, no? Se Obama somiglia a Don Chisciotte o no in questa sua crociata per salvare l'America, almeno un pezzetto del mondo, e soprattutto per ridare una decenza alla economia d'oltreoceano. Abbiamo letto tanti messaggi, vi ricordo che la storia al centro della presa di posizione di Obama, che ancora vi ripeto, alle 12 ora americana est, quindi alle 18 ora italiana, prenderà posizione sulla questione, farà un commento dal vivo visibile sui siti, sui soliti siti informativi riguardo alla questione AIG, e tutti i vostri interventi al riguardo. Ve ne cito almeno ancora un paio, ce ne sono tanti che sono rimasti nel cassetto. Alessandro dice: purtroppo non si può tornare indietro, altrimenti sarebbe facile, ma se le leggi ci sono vanno rispettate. Quindi lui è dell'idea che questi manager i soldi, bene o male li debbano prendere. Gianfranco dice: non è il ripetersi del conflitto tra diritto e giustizia? Si domanda. Diritto uguale pacta sunt servanda, giustizia uguale equità e appropriatezza rispetto a una situazione di fatto diversa da quella del momento in cui gli stessi pacta furono stipulati. Proviamo a chiedere un parere anche a un addetto ai lavori rilevante come Umberto Bertelè, presidente del MIP, la Business School del Politecnico di Milano, è già stato nostro ospite e torna oggi a trovarci per discutere di questo e anche di un tema che gli sottoporremo tra pochissimo. Buon pomeriggio Bertelè. Buon pomeriggio e grazie di questo nuovo invito. Ci dà un parere così, come dire, autorevole, via, su questa questione di AIG, no? Il Summers, il consigliere di Obama, che dice è una vergogna, un oltraggio che questi sportino via 160 rotti milioni di dollari in bonus dopo che ne hanno chiesti 170 miliardi e ne hanno persi 60 miliardi l'anno scorso. Però così stanno le cose, poco c'è da fare. Lei che dice? Sono sicuramente cose estremamente spiacevoli in questo momento, soprattutto quando si chiede al taxpayer, come viene sempre chiamato negli Stati Uniti, di mettere fuori un sacco di soldi per salvare le banche. Dall'altra parte c'è una serie di persone che forse pensa che andrà a perdere il posto e che questa la pensione, dice, un'idea sulla pensione, mettono le mani avanti. Mette da parte per la pensione. Quindi non credo che ci sia una situazione, come posso dire, su cui è difficile discettare. Però i nostri ascoltatori, che in tanti hanno risposto alla domanda che abbiamo messo oggi su internet, hanno provato a discettare, a ragionare proprio attorno a, come dire, alla decenza, non voglio usare addirittura la parola dell'etica del manager, insomma, come diceva anche l'ultimo che citavo poco fa, per carità, i patti sono i patti, il contratto è contratto e via dicendo, però, e dopo però ci possono essere i puntini di sospensione, cioè anche il manager, nonostante tutto, come dire, una coscienza ce l'avrà, no, da qualche parte. Ma io credo che sia più facile fare pressione psicologica da questo punto di vista, e qualche successo c'è stato quando i soldi sono concentrati su una persona o su pochissime persone. Qui, se capisco, c'è una distribuzione di persone, certo, che ha diritto, certo, a questo bonus. E quindi l'effetto di convinzione morale di decenza mi sembra onestamente più difficile da esercitare. Il capo ha provato, l'IT ha provato a dare il buon esempio, ma pare che non l'abbiano seguito molto. Senta Bertelè, no, l'altro motivo invece, l'originale motivo della chiamata per lei riguarda l'avvicinamento che vogliamo così attrezzarci a fare a questo appuntamento ormai definibile quasi epocale del G20 di Londra a inizio aprile. Insomma, c'è aprile. Barack Obama che dice: smentisco l'esistenza di divisioni tra i paesi sviluppati ed emergenti del G20 sulle modalità per affrontare la crisi economica globale. Respinge l'idea che ci siano disaccordi su questo. Poi andiamo a leggere nelle varie agenzie che nel weekend si sono incontrati i banchieri dei principali paesi e non si sono messi d'accordo, pronti a prendere qualsiasi misura necessaria per rilanciare l'economia globale, ma ognuno libero di agire come meglio crede, scrive l'attacco dell'agenzia, poi spiegando che comunque esistono punti di vista molto diversi tra americani, tra Germania, Francia e Italia e quant'altro. La Russia ha pubblicato, caro Bertelè, un documento che noi ci siamo andati a scaricare sul sito del Cremlino in versione inglese, con le sue proposte al mondo per risolvere i problemi in cui improvvisamente sono diventati i primi della classe e la nazione pilota, perché è un festival di buoni propositi da parte del Cremlino. Allora la domanda le voglio fare io prima di tutto è: ma questo G20 che cos'è? È appunto un festival dei buoni propositi, però su cui mi sembra in questo momento tutti i leader del mondo si riempiono la bocca, no? Sembra che si va al G20 e se ne esce con la ricetta giusta, ma è possibile? È così? Ma io credo che più che un evento importante ci sia un processo che per la prima volta mette insieme una moltitudine di paesi che rappresentano l'85-90% dell'economia mondiale, con molti nuovi ingressi importanti. da un certo punto di vista è il segno del forte calo del predominio statunitense. Certo. In altri momenti non sarebbero serviti convegni di questo tipo, sarebbero partiti, non dico degli ordini, ma comunque dei consigli forti da parte americana. In questo momento gli americani hanno bisogno di avere attorno a sé una serie di altri paesi e hanno bisogno di suddividere lo sforzo fra tanti partner diversi. Seconda convinzione che ho è che è difficile che si arrivi a un accordo ben preciso, anche perché ci sono due ragioni in gioco un po' contrastanti che spingono a muoversi i singoli paesi. Da un lato c'è una convinzione che se non si opera con una qualche armonia non si esce dalla difficoltà. Dall'altra però ciascun governo poi deve fare i conti a casa sua. Certo. E quindi mi sembra, non volendo dare un giudizio completamente negativo, che queste siano occasioni in cui vari paesi si incontrano e cercano di trovare dei mezzi per non scontrarsi in maniera troppo violenta fra di loro attraverso le misure che assumono, ma ciascuno sa che poi le misure dovranno avere alcuni punti di non eccessivo attrito l'una con l'altra, ma dovranno anche tener conto di quelle che sono le situazioni nazionali che potrebbero portare anche a conflitti sociali interni molto forti, certo, nel momento in cui la crisi dovesse aggravarsi. Quindi questa proposta che ha anche questo nome così affascinante, smagliante, architettura finanziaria globale, usata dal segretario al tesoro americano Geithner, diciamo che è bella a sentire recitare, ma non ha grandi probabilità nel giro di poche ore, di pochi meeting, di diventare una realtà, no? Un'architettura mondiale dell'economia. Entrando un pochino più nello specifico, a me sembra questo. Un primo conflitto è che Obama vorrebbe che vari paesi mettessero molti più soldi. Certo. I paesi come quelli europei dicono in realtà noi abbiamo già messo abbastanza, perché avendo poi sistemi sociali molto più solidi e che gonfiano le loro spese quando le cose vanno peggio, una parte dei soldi che mettiamo sono già lì dentro, mentre voi americani siete costretti a metterne di più. Certo. Secondo discorso, molti paesi, qui non è solo l'Europa, ma l'Asia nel suo complesso, dicono agli Stati Uniti, grandi pasticci li avete fatti voi, cominciate a risolvere il problema delle banche e poi parliamo del resto. Terzo discorso, gli europei sono fautori di una regolamentazione molto più forte, che vada a toccare strumenti come gli hedge o i fondi di private equity, che sono più propri della cultura anglosassone. Però anche in questo caso non si sa poi se si andrà verso una versione tipo quella sostenuta dai francesi, molto forte, molto estrema, o se viceversa da parte degli Stati Uniti non c'è un tentativo di dilazionare aspetti regolatori più forti. Bene, bene, grazie a Umberto Bertelè. Vedremo cosa succede quindi al G20 in tema economico, il cuore caldo di questo grande meeting, non dimenticando però che c'è il tema dell'energia, quello su cui peraltro si basa buona parte della proposta russa di cui vi abbiamo detto e sulla quale magari torneremo a discutere nei prossimi giorni. Grazie di nuovo a Umberto Bertelè, che vi ricordo è il presidente del MIP, la Business School del Politecnico di Milano. I'm a shoot to win and Jamal deve rispondere alla domanda finale per vincere 20 milioni. Come ha fatto ad arrivare fino a qui? Avete capito che stiamo parlando del film che ha fatto Lamplin alla ultima edizione degli Oscar, The Millionaire, ma non ne stiamo parlando per questioni cinematografiche. Il film ormai è in circolazione in Italia e in tutto il mondo, ma ci serve come spunto, no? Quella storia del ragazzino indiano, quella favola, che il ragazzino indiano che arriva fino dove arriva, sul limitare di una vincita eccezionale in un grande quiz. Nel frattempo siamo rimasti, come dire, con gli occhi fissi sugli schermi, perché c'è un vulcano di cui ignoravamo l'esistenza in Alaska, si chiama Mount Redoubt, che ha deciso di darsi una svegliata, e c'è un grande cono di fumo sulla cima di questo vulcano, e naturalmente sono corse le telecamere di CNN e di Fox. Restiamo invece non in Alaska, che si vede dalla Russia, vi ricordate, lo sosteneva Sara Palin, ma restiamo a parlare di India, e lo facciamo con un giocatore fuori casa oggi, il nostro Saro Capozzoli, fondatore e presidente di IESA, una società di consulenza per aziende italiane in Cina, residente a Shanghai, ma conoscitore per evidenti motivi di mobilità professionale anche dell'India e soprattutto dell'India che cambia. Ciao Saro. Ciao a tutti. Allora, perché ti chiamiamo in causa? Perché è uscito sul New York Times, è stato ripreso da più parti, e c'è in giro una certa aria che tira attorno al fenomeno esplosivo dell'India, no? Messo ormai chiaramente in parallelo e in paragone con quello cinese, quasi che il fenomeno della esplosività cinese nella finanza, nel commercio, nell'economia mondiale fosse un po' sulla strada del tramonto, perché c'è il nuovo ricco, il nuovo aggressivo di mercato, e questo nuovo sarebbe appunto quello indiano. Poi arriva questo articolo di prima pagina del New York Times che dice chiaro e tondo: attenzione, in India ci sono dati del 42,5% tra i bambini con problemi di alimentazione, tanto per non dire di fame, perché c'è un grande saggio indiano che si chiama Amartya Sen che teorizza che da quelle parti la fame non è una vera priorità politica, e quindi si capisce che questi nuovi colossi delle geografie mondiali in realtà, no, vanno come minimo a due velocità, forse 3-4, o sono degli iceberg con la punta che si vede e il grosso sott'acqua. Tu sei da quelle parti e su questi paragoni, anche il paragone con la Cina, che nello stesso articolo si precisa appunto di problemi di alimentazione infantile ne è assai di meno, la percentuale è al 7%, ci puoi dire qualche cosa e organizzare un ragionamento, Saro? Certo, ecco, prima di tutto devo premettere che è un po', diciamo, semplicistico paragonare i due continenti, quello indiano, diciamo, e la Cina. Sono due sistemi diversi, organizzati diversamente, quindi non c'è solamente una diversità di hardware, software, no? Quindi risorse umane, materiali, tecnologie o capacità, ma anche di hardware, no? Cioè di regole e di procedure. Quindi bisogna tener conto di questo. Però fa riflettere quello che sta succedendo in India, cioè il fatto che risaltano 230 milioni di bambini praticamente sottonutriti in India, è qualcosa che colpisce. Cioè sono cifre, quindi, forse la ripetiamo la cifra, quanti milioni? Lo sì, ripetiamo? 230, un numero che dà il New York Times. Certo, ma per far capire di cosa stiamo parlando proprio. Vai. Un quarto della popolazione, diciamo, mondiale che soffre di fame, in questo caso bambini in India, sono bambini in India, 230 milioni di bambini che hanno problemi di sono sottopeso, ma deriva anche dal fatto delle madri che sono anche a loro volta sono sottoalimentate durante la gravidanza, e questo porta grandi problemi, ecco, sociali. Ma secondo te, Saro, ha ragione Amartya Sen quando dice: guardate che lì quella non è una priorità, quindi dovete abituarvi all'idea che questi paesi corrano estremamente in certi settori della finanza e dell'economia e magari vadano invece pianissimo in altri, del sociale e del civile? È così secondo te? Diciamo che l'India c'è un grosso rischio di unrest, si dice sociale, di sbilanciamento sociale molto accentuato che potrebbe portare a dei problemi, cosa che la Cina ha cercato sempre di evitare ed è molto attenta, no? Perché io mi ricordo quando sono arrivati i primi anni in Cina, io mi ricordo che nelle famiglie c'erano i buoni coupon per garantire il riso, il latte, la carne, gli alimenti di prima necessità, cioè era prima prendiamo, cerchiamo di garantire a tutti da mangiare, la prima cosa, ci riempiamo lo stomaco alle persone, infatti, e poi dove vediamo tutto il resto, infatti sono partite in quegli anni poi le riforme economiche, l'apertura che io dico sempre lo spartiacque dopo Tiananmen, c'è stato proprio una specie di patto sociale, ok, noi vi permettiamo di far soldi, arricchirvi, di crescere eccetera, lasciate poi noi in mano invece la politica, la gestione dello Stato. In India, nonostante sia partito in quarta negli ultimi 10 anni lo sviluppo che noi possiamo vedere in certe città, in alcune zone dell'India, infatti le fabbriche non si sa perché sono tutte quante concentrate in gran parte attorno Pune, mentre in Cina c'è una vasta zona, anche se costiera, ma molto grande, piena tempestata di fabbriche, hanno cercato un po' sparsa per il paese. Quindi l'India si è praticamente si è sviluppata lasciando indietro le caste, perché c'è un sistema a caste più povere. Mentre in Cina è possibile che una signora, c'è una storia di una signora famosa, no, che raccogliendo carta, riciclando carta e barattoli della Coca-Cola, eccetera, è diventata milionaria, in India una cosa del genere sarebbe impossibile, c'è un qualcuno che dal zero, dal contadino, possa arrivare al Parlamento o a prendere in mano società di una certa dimensione. Bene, Sara, ti devo fermare perché siamo in conclusione, riprenderemo il discorso nei prossimi giorni perché mi sembra vasto, stimolante e interessante per capire gli scenari. Intanto rimando gli ascoltatori all'articolo pubblicato nella sezione Asia del New York Times, As Indian Growth Soars, Child Hunger Persists, la fame dei bambini persiste mentre il paese è in crescita. Vi ricordo che Saro Capozzo, tra l'altro, è in arrivo in Italia e sarà presente a un convegno promosso dal Gruppo 24 Ore intitolato Opportunità o rischio, chi scommette ora sulla Cina, martedì 31 marzo 2009, ore 17:30 nella sede del gruppo in via Monterosa 91 a Milano. Ci sarà Saro Capozzoli, Francesco De Moiana e molti altri manager e addetti ai lavori a discutere sulle questioni dell'investimento in Cina. Mi correggo perché ho detto una sciocchezza dimenticandomi del fuso orario, ma prima chiamo Vivian, dai. Eccolo, se no andiamo troppo in ritardo. Il fuso orario fa sì che Obama parla alle 5, non alle 6, perché adesso è di 5 ore e quindi fra 5 minuti, 4 minuti anzi per la precisione, Obama dirà la sua sulla questione AIG. Questo è Jefferson. Stefano Pistolini in redazione, Emiliano Enrico in regia, a Roma Valerio Occhetti, a Milano Valeria Bernardi. Su Facebook ci trovate a redazione Jefferson 2 o a Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, le due pagine a cui iscrivendovi farete parte della nostra community. Replica alle 24, diretta alle 4 come sempre qui su Radio 24. A domani, ci risentiamo. Jefferson 2, l'arte della svolta.